24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura le indiscrezioni sul superpiano per il salvataggio dell'euro, su cui si sono concentrate le indiscrezioni di stampa. La Commissione europea smentisce ufficialmente, ma il presidente Herman Van Rompuy parla di un piano per l'integrazione economica in preparazione. La Troika promuove il piano di risanamento del Portogallo, mentre Bruxelles smentisce la possibilità di un salvataggio per Cipro. Oggi parleremo anche del vertice Europa-Russia, degli aiuti comunitari promessi alle zone terremotate dell'Emilia-Romagna e vi porteremo a Londra per il giubileo della regina. Non ci sono piani segreti per ristrutturare l'Eurozona. La Commissione europea ha smentito così le indiscrezioni del domenicale tedesco Welt am Sonntag, secondo cui Van Rompuy, Barroso, Draghi e Juncker starebbero preparando un masterplan per il salvataggio dell'euro. Intanto il presidente europeo Herman Van Rompuy ha annunciato che entro fine anno l'Europa conta di presentare un piano per una maggiore integrazione economica. Van Rompuy ha precisato che entro il prossimo summit di fine giugno presenterà i principali settori per rafforzare l'unione economico-monetaria e il metodo per raggiungere questi obiettivi. Avremo più Europa, non meno Europa, ha assicurato Van Rompuy. Secondo il commissario agli affari economici Olli Rehn, la possibilità che il nuovo fondo salva stati permanente dell'Eurozona possa ricapitalizzare direttamente le banche in difficoltà non è prevista per ora, ma se ne sta discutendo. La Francia è a favore dell'unione bancaria e della ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del fondo salva stati ISM. A dichiararlo il ministro delle finanze transalpino Pierre Moscovici, che ha definito fondamentale l'argomento. Con la Commissione europea c'è convergenza e non è un mistero, ha aggiunto Moscovici. La Commissione intanto ha cercato di allontanare l'ipotesi di un salvataggio di Cipro, affermando di avere fiducia nelle possibilità del paese di superare la crisi attraverso le riforme nel rispetto delle altre raccomandazioni rivolte da Bruxelles a Nicosia la scorsa settimana. La precisazione della Commissione è giunta dopo che il governatore della Banca Centrale Cipriota, Panikos Demetriades, pur non escludendo altre soluzioni, ha fatto capire che un ricorso agli aiuti europei è sempre più probabile. La Troika Europa BCE FMI ha promosso il Portogallo, la cui attuazione del programma di risanamento è sulla giusta strada e permette l'erogazione della tranche da 4,1 miliardi di euro di aiuti esterni per Lisbona. Lo si legge in un comunicato congiunto. Proprio Lisbona ha tagliato le stime sul PIL 2013, portandole a più 0,2% dal più 0,6% atteso ad aprile. A dirlo il ministro dell'economia portoghese Vítor Gaspar, che ha aggiunto il rapporto debito-PIL salirà nel 2013 al 118,6%. La Spagna non ha bisogno di un salvataggio, ma l'Europa deve apportare fondi al settore finanziario per circa 40 miliardi di euro attraverso un tipo di strumento ancora da definire. Lo afferma il presidente del gruppo Santander, il maggior gruppo bancario del paese, Emilio Botin. Le speranze di un piano salvabanche a livello europeo, per quanto raffreddato ufficialmente da Bruxelles, innescano gli acquisti soprattutto sul settore bancario e dipingono una seduta di borsa dove paradossalmente è il mercato tedesco a soffrire. Se Madrid più 3% l'Ibex 35 è la migliore grazie alla speranza di un intervento massiccio a sostegno delle banche iberiche, Francoforte chiude con un calo dell'1,25% e resta sotto 6.000 punti per la prima volta dal 2011. Piazza Affari ha rallentato, ma il FTSE MIB ha chiuso in rialzo. Le speranze di un piano europeo salvabanche, raffreddate almeno in via ufficiale da Bruxelles, hanno innescato gli acquisti sui titoli bancari europei che hanno trainato il rialzo dei listini periferici, mentre Francoforte e Zurigo hanno chiuso in perdita. A Milano il paniere FTSE MIB è stato completamente guidato dal rialzo degli istituti di credito, più 5,8% Intesa San Paolo e più 5% per Banco Popolare, in scia UBI più 4,8% e Unicredit più 4,5%. Reazione positiva delle generali al cambio dell'amministratore delegato dopo la prova di forza del CDA che sabato ha allontanato Giovanni Perissinotto. Il titolo ha chiuso in rialzo del 2,2%, ma il mercato resta in attesa per capire le strategie del nuovo capo azienda Mario Greco sul rafforzamento patrimoniale e recupero della redditività. Sull'esempio delle generali, rialzo del 2,3% anche per Mediobanca, primo azionista del Leone di Trieste. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Russia ed Unione Europea si trovano d'accordo nel sostenere il piano Annan come il migliore approccio per evitare la guerra civile in Siria e arrivare a una soluzione della crisi. A dirlo il presidente dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy, a conclusione del vertice Russia-Europa ospitato dal presidente Vladimir Putin a San Pietroburgo. Rispetto a Mosca, l'Unione ha diversi punti di vista e modi di valutare, ha detto Van Rompuy, definendo la situazione in Siria terribile, ma con la Russia Bruxelles concorda sulla necessità di lavorare per arrivare a un'immediata interruzione di qualsiasi forma di violenza. Proprio la Russia si è detta interessata a un'Unione Europea forte, anche in vista del proprio imminente ingresso nel WTO. A dichiararlo Vladimir Putin. Putin ha ricordato che l'Unione rappresenta circa il 50% dell'interscambio commerciale russo e che il volume ora è sceso leggermente sotto questa soglia, che fu superata 2 anni fa. Europa in visita nelle zone terremotate dell'Emilia-Romagna. Domenica il commissario europeo alla politica regionale, Johannes Hahn, con il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, ha visitato le zone colpite dal sisma. Posso dire che si tratta di danni intorno ai 5 miliardi di euro, ha affermato. Noi potremmo dare un aiuto nell'ordine di 150-200 milioni, mentre dai ministri per lo sviluppo rurale potrebbero arrivare altri 100 milioni. L'Europa sarà a fianco dei terremotati nell'opera di aiuto e ricostruzione, ha ribadito Tajani. Il massacro di Srebrenica è stato un genocidio, non si può riscrivere la storia. Così la portavoce della Commissione europea Pia Arenkilde, commentando le dichiarazioni negazioniste del neopresidente serbo Tomislav Nikolic. E in Francia nuova aggressione antisemita, spie gravissime di un odio mai sopito che si riaccende. Non resta mai senza lavoro, purtroppo, il forum di coordinamento israeliano che conta le azioni antisemite nel mondo. L'aggressione a spranghe e martelli di 3 giovani ebrei avvenuta sabato a Lione non è nemmeno l'ultima conteggiata dal sito. Finiti in ospedale, i 3 se la sono cavata tutto sommato bene, con pochi giorni di prognosi. Ma sono passati solo pochi mesi dalla strage di Tolosa e il nuovo ministro degli interni, Valls, ci ha tenuto a ribadire la sua determinazione a combattere qualsiasi aggressione a sfondo religioso. Ma il compito è arduo. È proprio la Francia, con Stati Uniti e Gran Bretagna, uno dei paesi in cui si registra il maggior numero di incidenti di natura antisemita. La quantità di episodi va comprensibilmente di pari passo con la dimensione della comunità ebraica francese, la più numerosa d'Europa, 600.000 persone, strette accanto alla più vasta comunità musulmana del continente. Negli ultimi anni, poi, ci si sono messe l'avanzata delle destre nazionaliste e la crisi economica a riaprire antiche piaghe. E non accade solo in Francia. Da noi, pochi giorni prima della strage di Tolosa, fu arrestato a Brescia un marocchino che avrebbe avuto l'obiettivo di compiere un attentato alla sinagoga di Milano. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. 4 persone, un tunisino e 3 svedesi, sono stati giudicati colpevoli di aver pianificato un attacco terrorista contro gli uffici del giornale danese che aveva pubblicato le vignette su Maometto nel 2005. Vignette che avevano scatenato proteste in tutto il mondo musulmano perché giudicate blasfeme. I 4, tutti di fede musulmana, rischiano una condanna fino a 16 anni. Un accordo finale sulla riforma della PAC non sarà possibile senza una decisione sul futuro bilancio europeo 2014-2020. Così il commissario all'agricoltura Dacian Ciolos al Consiglio informale dei ministri. Ciolos ha aggiunto che ha difficoltà a immaginare come gli Stati membri e l'Europarlamento possano decidere la redistribuzione dei pagamenti agli agricoltori senza conoscere il livello dei fondi a disposizione. Lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'applicazione di singole misure per una maggiore efficienza energetica hanno il potenziale di creare fino a 5 milioni di nuovi posti di lavoro nel settore dell'economia verde entro il 2020. Lo ha dichiarato il commissario all'occupazione Laszlo Andor durante la presentazione di un rapporto realizzato dall'OCSE sul potenziale impatto sull'occupazione legata alla migrazione verso un'economia a basse emissioni di CO2. Si chiudono oggi in Gran Bretagna i festeggiamenti per i 60 anni di regno della regina Elisabetta. Nonostante tutto, una regina ancora molto amata dai suoi sudditi, afferma Enrica Roddolo, giornalista esperta di monarchie, autrice del libro Invito a Corte, proprio sul giubileo di diamante della regina Elisabetta. Una regina che è stata in questi 60 anni di regno una straordinaria professionista nel suo ruolo. Comunque la si possa pensare, monarchici o repubblicani, tutti concordano nel fatto che poche persone come lei hanno saputo reggere il proprio ruolo professionale con tanta saldezza e tanta abilità in tempi anche molto difficili e molto mutevoli, perché è passata dal dopoguerra, che ha trovato Londra distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è passata poi per la Londra delle rivoluzioni di costumi, di tempi e di stili della Swing in London, è passata anche per gli anni duri di Margaret Thatcher con le rivolte dei minatori ed è arrivata fino al grande successo, al grande crack della finanza che ha sopportato la City proprio in questi ultimi anni. Eppure il consenso per la monarchia e per la regina Elisabetta in particolare non è mai stato così elevato, tant'è vero che l'ultimo sondaggio realizzato da Ipsos Mori a Londra dice che appena un 13% di inglesi pensa che forse una repubblica potrebbe essere meglio di una monarchia. Negli stadi di Euro 2012 sarà completamente vietato l'uso, la vendita o anche la pubblicità del tabacco. Il commissario europeo per la salute John Dalli e il presidente dell'UEFA Michel Platini hanno annunciato il sostegno comune a eventi sportivi in cui si è vietato il fumo per promuovere un'Europa smoke free. Il fumo è la prima causa di morte evitabile nell'Unione Europea, con circa 650.000 decessi prematuri l'anno. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.